Attenzione, dici, c'è qualcuno? Buonasera. Ciao Gabra. Ciao Gianni. Mi dici se mi senti un po' più forte rispetto a avanti ieri? Aspetta che controllo bene, metto gli occhi. 1, 2, 3, 4, 5. Prova, prova, prova. E ero grigio, 9.30, sì, oggi. Oggi arrivi bene. L'altro giorno non mi ricordo quanto ti ho detto, 9 mi pare. Ma non sono molto convinto, perché guarda, queste antenne sono di una difficoltà, praticamente dovresti essere un uccello per tagliare, cioè arrampicarti all'antenna in verticale, anche se poi crolla perché in vetro e tagliare piano piano il conduttore finale. Questo adesso risulta troppo lungo, quindi la devo ributtare a terra, tagliarne 3 cm e riportarla su, perché va molto bene sulla 26 e va male qua, perché è molto stretta di banda. Non si finisce mai. Perché male? Ti dà stazionario? È abbastanza. Qua siamo a 1 e 4. Scendendo più giù a 26 e 0. Quindi siccome la larghezza credo di questo modello sia 1,5 e 1,4 come larghezza di banda, quindi a meno che non operi nei canali bassi solo andrebbe anche bene, ma così no. No, qua fidati, 27 ti deve dare 1,1 perché a me mi dava 1,1, anzi nemmeno 1,1, si muoveva appena, ma proprio poco, a 1,1 non ci arrivava. E non saliva, girava i canali, non saliva, era così, saliva solo un po' quando attaccavo un linearetto da 100 watt e mi saliva 1,2, ma era sempre della roba. Sì, lo so. Io ho anche tutti gli strumenti ovviamente per controllarla, quindi domani la ributto giù e le tagliamo i capelli, così almeno fa una bella figura. Beh, essendo la banda più stretta c'è anche una selettività maggiore che non guasta. Però tu figurati, antenna bassa ieri proprio con l'antenna coricata, sentivo chiaramente i russi, sembrava che ci fosse un'invasione dei russi, ma forti quindi a volte uno dice che ne capisce, bravo veramente. Guarda, quelle antenne lì sono tipo di puli e trasmettono anche quando tu le metti in terra, sono tipo dei puli, dai. No, è proprio un dipolo, alimentato al centro, anche se poi l'alimentazione del PL è in basso ovviamente, però è un dipolo a tutti gli effetti, in questo caso è un dipolo a mezz'onda, sì. È una passione, la nostra discretamente semplificata e a volte anche pericolosa, perché con i cosi umidi eccetera devi salire, devi rischiarti la pelliccia anche, quindi adesso la ributto perché oramai funziona tramite contrappeso, quindi la corico, la taglio, la ritiro su, figurati che non ci ho messo neanche gli anelli, quelli metallici, non per finire, vado a vedere a che punto era, quindi spero che non faccia troppo vento, se non se la porta via. Ma non è che si è abbassata? No, perché ci ho fatto il blocco col nastro adesivo, quindi no, non si abbassa, ecco. È tutto tutto un macello, veramente. E finisci una e iniziare un'altra. Quella lì l'hai rifatta tutta nuova, hai messo anche il capo interno nuovo. Tutto, tutto. Solo che ho dovuto ridurla, quindi non è più una Game Master 5 ottavi che richiede una grossa altezza. Però la grossa altezza, come faccio a fare la grossa altezza? Le ho cambiato due volte il cavo per vedere se la questione di impedenza, i condensatori, niente, c'ho anche il misuratore per i condensatori, ma tutte le misure che tirano sono sballate. I video che ti danno sono sballati perché l'antenna è enormemente sensibile, soprattutto la bombina, alla vicinanza di oggetti metallici e tutte queste belle cose. Quindi è estremamente complicata la taratura, dovresti stendere un filo, praticamente una corda assolutamente a magnetica e non in rame, eccetera, però una corda da stendere molto molto in alto, perché l'antenna, poi la Game Master 5 ottavi è altissima, sono quasi 7 metri. E a terra fare le misurazioni, poi la tiri su, proprio nuda e cruda, senza neanche la vetroresina, da nuda e a cruda, a vedere qual è il punto ideale. Dopodiché ci puoi mettere la vetroresina e vedere cosa succede, sperando che non ti cambi le impedenze, perché c'ha un condensatore fatto a cavo e poi c'ha un regolatore di impedenza. Aspetta, già che hanno chiamato, avanti che chiamano. Ehi, ciao, buonasera, ascolta, ciao Gianfra, mi dici come ti sta arrivando, sto provando il 450 che mi stava creando problemi. L'imbrago sta andando benissimo, di segnale 6925. Quindi va bene, la modulazione va bene, la mia, forte, chiara, bella, da combattimento come sempre, Gianfranco, vabbè, non glielo chiedo neanche perché mi ci devo abbassare, se no, è segnale 925. Sì. Allora, cazzo, io mi sento bassi, c'è qualcosa che sta attenuando il segnale. Vabbè. Ciao Gianfra, buonasera, avanti. Sì, ciao Claudio, la voce è un po' rauca, ma anche la mia lo è, quindi no, non c'è problema, è molto chiara. Il segnale mi sta dando qualche dubbio, perché da me invece è 9 scarso, e devo anche dire, tieni presente che io ho l'antenna attaccata a scotch, perché l'ho attaccata quasi al buio, l'ho dovuta tirare su, però domani la devo ritirare giù perché ho un po' di stazionaria e non mi convince molto, tutto lì. Ripeto, la voce è molto molto rauca, ma anche tu sarai piscato. Lui lascia perdere. Non si sente che sono tutto intasato. Sono tre giorni con raffreddore a 1000. Lascia perdere. No, ma come segnale no, anche tu sei bassino, ma tre Gianni è il suo segnale. Però c'ho qualcosa che mi sta attenuando, perché rispetto all'altro K, i segnali sono più alti, cioè questi sono più bassi di A, gli A invece sono più alti. Vabbè, che questo è un, c'ha lo smitter a LED, cazzo, non posso vedere io questi smitter, boh, infatti questa radio già parte in fretta. Avanti Gianni. No, claro, per me è il contrario, cioè per me mi arriva a 9,5 l'altro giorno, oggi sei 9,25, quasi 9,30, picchia di 9,30, quindi con questa arrivi molto più forte dell'altro. Oh, allora c'è qualche problema di strumentazione. I watt sono buoni. I watt sono buoni. E allora questa già va bene. L'importante è già che la modulazione sia la mia, capito? Perché sono riuscito a regolarla, sai, questa c'ha delle regolazioni un po' particolari, no? Devi prendere i picchi positivi, devi giostrare col car, col power. Non ha mai buttato la radio. Le altre K, 440, 140 sono molto più semplici. Comunque la modulazione mi hai detto che è la mia, giusto? Sì, va benissimo. Questa che radio è? questo è il PS450. Ah, 450, ho capito. No, va benissimo, per me 6 volt sono gli stessi dell'altro giorno, si arrivava più forte con questa. No, no, ma questa era più watt, poi questa c'ha picchi. Questa da 30 a 100 direttamente, l'altra da 30 a 50, forse per quello che tengo più forte. Va bene, dai, proseguite un attimo che io faccio dei controlli più accurati, ok, poi rientro. Avanti Gianfra. Sì, sì Claudio, guarda che sicuramente c'è anche molta molta direzionalità, perché ho visto quelle antenne, le tue, da poco, che sono dovuto salire a Oslo, sono un po' strane. C'è quell'impiasto di collina quando ti decidi a chiamare una bella ruspa e abbassartela. Magari Gianfra, fosse il terreno mio l'avrei già fatto. Io il terreno mio già l'hai visto qual è, no? Quello pianeggiante. Non avrei tutte le balle con la collina, davvero. Non avessi avuto quella collina, guai. No, no, ma quest'estate faccio un lavoro, metto tutto in ordine come cristiano. Un traliccetto come i cristiani, dove senza nessuna direttiva, non voglio più sapere le direttive, un traliccetto un po' più verso su, verso l'interno della casa, perché adesso nel giardino, proprio verso l'altro interno, in punta metto la 510 e a fianco faccio fare dal fabbro una U, da una parte 510, dall'altra parte ci metto la verticale per i 10 metri, quindi la posso usare anche qua, e poi agganciate di poli con la carrucola, se no non ne tolgo piedi, così finalmente mia moglie sorride perché le sto occupando tutto il giardino con questi cacchio di fili che salgono, scendono, qualche giorno si strangola, vai già. Ecco, adesso che la permette la direttiva che la casa ammassa, prima sì che le schiavi davvero sopra un grattacielo, le schiavi veramente tanto, infatti io avevo sempre questo dubbio che il vento magari potesse buttarla giù, perché in altezza era molto alta prima, ma adesso che puoi farlo, grazie che sei padrone di una casa bassa, Io non so già, ma non che la posso mettere sul tetto, devo mettere un traliccio qua per superare la collinetta, ci vuole un traliccio da 18-20 metri, allora vai, borra, butti a capo, io più voglia già di stare appresso le antenne, ci vuole manutenzione, vedono per le palle la gente, capito, ci vuole esperienza per gestire quelle cose lì. L'età cresce, no? Stiamo andando avanti, mi pare, quindi non fa. Vedi, mio padrino Walter, ogni volta che ha problemi deve chiamare, perché lui non mette i piedi. È un problema, fino a quando te le sai gestire tu da solo, va bene, ma quando devi chiamare gli altri per farti la gestione, no? Non è una cosa bella, capito? No, ma io giro tutta l'Europa, c'ho anche bei collegamenti nel mondo con i dipoli, capito? Quindi va bene così, non c'è problema. Vai già fa. Yeah, in diretta te l'ho fatto, eh. Salute. Ma guarda, Claudio, io ho finito adesso, poco fa lo sto dicendo a Gianni, ero armeggiando nel traliccio, ho fatto il sistema bilanciere, no? Che il tubo si piega a metà tralicetto e cade a terra, e quindi l'antenna diventa in orizzontale, ci puoi lavorare e poi la ritiro su. Avrò fatto, collaudato già 20 volte, sto alza e basta, che mi vede pensare che sono matto. E anche io mi sono dovuto arrendere a queste cose e fare anche questa qua, che è quella che utilizzo a 10 metri e di qua. Proprio perché non ce la fai più, no? A parte che è molto pericoloso come lavoro, perché non è che ti puoi arrampicare, stamane ero comunque arrampicato, così ormai sono arrugginiti, non è che cedano, però insomma su altezze che iniziano a diventare di 6 metri, 6-7 metri, insomma, e poi col palo che sale su di altri 6 metri, insomma, siamo già ad altezze importanti. E lì col d'argano a tirare su questo tubo, a riscendere, ma devo riscendere, devo tagliare un pezzo d'antenna per tirarla meglio, riportarlo su, se non piove, poi questa pioggia che ben venga, però lavoro in mezzo al fango, un casino, insomma. Là. No, ma no, non si può, come diceva Gianni, no? Non si può più già. Avere la gestione delle direttive vuol dire praticamente lavorare tanto, perché le direttive hanno bisogno di manutenzione, hanno bisogno di tante cose. Io ce l'ho 5 elementi a carbonarsi ancora in mansarda, fate il conto, e rimane lì, è smontato, rimane lì. Qualcuno, ma perché non la piazzi? No, non devo piazzare niente, nulla, rimane lì, fastidio non me ne dà, non dà fastidio a nessuno. È conservata in mansarda lì a Carbonazzi e rimane lì, anzi uno di questi giorni vado a prenderla e me la porto qua, non so mai che sparisca, perché prima c'ero io che controllavo, adesso io non ci sono più e quindi però l'accesso e quindi niente, capite? Però vado e me la porto qua, me la metto nel mio garage e così rimane lì. Ok, va bene, dai, riprendi Gianni, io mi allontano un attimo perché sto sempre starnutendo, mi sono rotto le balle. È un secondo solo che sto mandando un messaggio, subito. Sì, ok, anch'io rimango un attimino in ascolto. Ia. Riprendi Gianfra. Sì Gianni, e niente. No, io ho fatto questo sistema, no? Perché neanche io oramai non è che sia un ragazzino, no, oramai non ne posso più di stare a salire, scendere, sono tutto pieno di acciacchi che qua lasciamo perdere che è meglio. E quindi in qualche modo mi deve far arrangiare. Sentivo anche un collega che fu fuori Sassari, anche lui lo stesso, c'ha la direttiva bloccata e nessuno ci va, perché oramai chi è che ci va? Sono tutti paura di cadere, di troncarsi sotto il collo. Ed è così, purtroppo. Lobby è abbastanza complicato, è l'età comunque che ci piace o no, dice la sua. Sì, io hai fatto bene a fare quel sistema lì, perché ti evita di chiamare gente, ti fai tutto da solo, stando attento, poi come fai a tirarlo su, cosa c'è, carrucola? Beh, immagina di avere sul traliccio a metà strada una bilancia, anzi no, ancora meglio, un'altalena. Da una parte c'è l'argano e dall'altra parte c'è l'antenna. Devi cercare ovviamente di equilibrare i pesi in modo che l'argano non sforzi più di tanto. E t'arrangi così, l'abbassi, fai quello che devi fare senza chiamare qualcuno, sei a terra, poi con l'arganetto la tiri su piano piano, lei sale, abbulloni il tubo, boh, basta, finito. Altre soluzioni non ne ho, io faccio tutto da solo perché conosco dove mettere i piedi, l'ho progettato io, l'ho fatto io. Nessuno, non ci deve bazzicare nessuno, perché se succede qualcosa poi sono guai grossi, non puoi far avvicinare o salire qualcuno su delle strutture che sono grandi. Io ne ho due di tralicci, quello lì dove c'è questa antenna è basso, l'altro è molto più in alto, di lì c'è anche la scala per salire, però non ci voglio salire perché anche per me inizia a essere rischioso, perché è molto alto, e quindi sgancio tutto, le sicure, lo butto a terra così. Fortunatamente le antenne sono leggere, perché la 510 e la 300 sono antenne leggere. I tubi li ho sostituiti l'anno scorso, sono quelli in alluminio di 6,5 metri, che rifirraffa, sono molto contento di quei tubi, perché se vai da Fusaro la corrispondente altezza la paghi più o meno allo stesso prezzo, se lì invece è un tubo unico e quindi non c'hai neanche il problema di attaccarlo in maniera telescopica, ecco, che poi diventa più debole. Ma per portarlo quando è unico, secondo quanto è lungo, ci vuole un mezzo. Ce l'hanno loro, guarda, ce l'hanno loro e l'hanno portato a casa, paghi ovviamente, però molto più onesti di quelli che puoi trovare da Cosoli, dall'ex Bricco Tecnomat, quelli che sono posteggiati, vogliono 60 euro per fare un viaggio, quelli lì invece con 30 euro tenisci. 60 euro sono un bel po' di soldi, considerato che da qua a Predanieda sono pochissimi chilometri. Quelli invece ci hanno dato carro, vengono un attimino, scaricano, arrivederci, grazie. E infatti in tutto ne ho 4, ne avevo preso di quei tubi. E hanno già collaudato qualche tempesta, visto che sono andati bene, quindi se rimangono così, leggeri, pratici, sono trattati anticorrosione, perché sono di quelli che usano per fare le ringhiere e quelle cose lì. Ah, ho capito. Dove li hai presi? Ce l'è presente la piazzetta, scendendo più giù per addentrarti verso Predanieda, passa l'incrocio che porta al supermercato lì, dove c'è la curva, che tra l'altro c'è anche l'edicola, se non ricordo male, più giù, c'è anche quello che vende la frutta che si ferma lì, di lì c'è l'alluminio, Nord Alumini, una cosa del genere, c'hanno essenzialmente alluminio, proprio perché forniscono le ditte per fare quei lavori lì di ringhiere e così via. Ah, ho capito, Nordal può essere? Sì, Nordal, una cosa del genere. Sì, sì, mi sa che ci sono anche andato per lavoro io, avevo preso della roba per lavoro. E prima praticamente ce l'aveva il capannone e la zona di Muros, questa Nordal, e poi non lo so, ah no, quello lì era Zingo Nord, sto sbagliando, dove ho zingato i carrelli della Spezia. Infatti questo qua c'ha solo tubi, ho visto tubi, anche raccordi, quelli particolari a gomito, proprio per fare le ringhiere in esterno. D'altronde c'avevo anche da tanto un tubo, solo che sì, quello è sagomato, che usavano le barche a vela, che è dello stesso tipo, alluminio anticorrodal, che si usa in mare, e quindi sono proprio gli alberi, infatti è tutto pieno di ganci quello, ed è sagomato in maniera speciale, quello costa veramente caro, perché è sagomato all'interno, c'è la scanalatura in modo che il supporto della vela possa salire fino in cima. Quelle amici hanno una resistenza tremenda. Sì, ma adesso non è bene, non stanno mettendo quel materiale, diciamo, non è proprio plastica o roba del genere, stanno mettendo un materiale che è più, diciamo, non è rigido, dai, è più morbido come materiale, è tipo una plastica o una rigida, qualcosa del genere. Flette molto. Stanno sempre ovviamente mettendo nuovi prodotti, però ovviamente costano anche abbastanza cari, perché se prendi i tubi zincati, basta un qualcosa che subito, però una volta che perde la zincatura ce li butti via, e poi comunque sono abbastanza corti, perché qua quelli da 3 metri non li portano più. Ho guardato dappertutto se ce l'avevano, ma niente da fare. E poi comunque sono pesanti, se prendi quelli buoni sono pesanti, quelli fini si potrebbero anche spezzare col carico, a seconda del carico, e quindi ho optato per questa soluzione che per adesso mi soddisfa. Ma io li avevo presi da Marcito, li avevo presi lì da Marcito, poi vabbè, abbiamo fatto cosa per abbonarli e niente, ce ne ho già un po' di anni. E poi avevo speso 20 euro l'uno, una cosa del genere avevo pagato. Lo so, però qua c'è un'altra tipologia di antenne, quindi bisogna essere certi che si possa armeggiare spesso, perché già lo sai, quel tipo di antenne ogni tanto ne ha una, e soprattutto per il motivo che roba buona oramai non ne fa più nessuno. Ma io ho visto a Portotorre se c'è uno che non ha l'antenna del baracchino ma quella del televisore, siccome risulta una casa bassa, si è messo un palo alto tutto in acciaio, ma tu devi vedere, brilla quando c'è il sole, brilla proprio, ti abbaglia. E l'ha messo lunghissimo, sarà, boh, io penso che sia 15 metri, qualcosa del genere, l'ha messo un bel tirato. Sì, quando sei costretto, secondo dove sei, le antenne tra l'altro oramai lavorano solo in UHF, per la televisione, e quindi è vero che c'è più guadagno perché non c'è di mezzo il miscelatore, però insomma ne sappiamo qualcosa noi dell'UHF, ecco, che dove deve arrivare non arriva, e dove deve arrivare insomma è un macello, una cosa un po' complicata quella dell'UHF. Vabbè, ma questo tubo per un'antenna del televisore è anche sprecato, perché è grossissimo, a parte grossissimo poi finisce fino per un'antenna del televisore, è molto grosso come tubo, e sicuramente qualcuno che lavorava nella zona industriale, perché fare una spesa così per un'antenna del televisore mi sembra un po' esagerato. Magari gliel'hanno regalato, non lo sappiamo, a volte qualcuno ha fatto dei lavori e poi se ne fa sbarazzare in qualche modo, capito? Tu guarda la questura, la vecchia questura, ci sono i cavi e cosa, tutti messi lì, perché costa un patrimonio togliere tutto, capito? Qualcuno gliel'ha chiesto se poteva prenderli, eccetera, eccetera, ma niente, deve essere una ditta, perché sai, le misure di sicurezza, se può succedere qualcosa, insomma la società ti ritira, no? Responsabilità oramai non ne vuole nessuno, perché finisci in galera. E quindi la tattica è lasciare tutto così, anche dove ero io, i nostri punti radio, no, sono rimasti dove erano, capito? Quindi, e chi li toglie? E quanto costa toglierli? siamo sempre lì e ci possiamo girare come voi, ma il problema è sempre lo stesso, che nessuno vuole spendere per togliere tutta questa roba che rimane lì ed è così. Tu pensa a uno di quelli, ad esempio un ripetitore laser, che erano quelli che ci avevamo noi. Il ripetitore laser praticamente veniva intorno, ce ne vogliono due ovviamente, uno ricevente, uno che riceve da una parte e uno che trasmette dall'altra. Uno di quelli lì veniva intorno ai 15-16 mila euro. Tutte e due eravamo intorno ai 30 mila euro, quindi. Una barca di su, sono apparecchiature costose. Ma se ti portano dietro, dietro dei segnali spaventosi, perché a tararli te ne passa la voglia, tu pensa che sopra c'hanno un mirino tipo quello da cecchini tiratori scelti, e tramite quel mirino devi centrare la posizione dove si trova l'altro laser, perché basta un centimetro, due centimetri e vedi il segnale che se ne fa subito. Tutto lì. Mi ricordo un giorno che su questo tetto, no, c'erano, vedevamo le apparecchiature, salivano, scendevano, salivano, scendevano, salivano, scendevano. E noi ci guardiamo alla faccia e diciamo, scusa, perché non si guasta del tutto? Cosa sta succedendo? E lei te l'aveva fatta, siamo senza contatto, siamo senza contatto. Tu non riuscirai a indovinare cosa era. Quando siamo andati lì, l'abbiamo perduto. Guà. Dimmi cos'era. Ah, non lo so, un ripetitore. Eia. C'erano gli operai che passavano con queste tavole e rompevano il fascio laser. Ci siamo guardati, mancate, e questo ci passava davanti. Siamo andati e abbiamo detto, ma guardi, erano tra l'altro un tetto pericoloso anche in tegole, e abbiamo detto, guardi, non può passare davanti a quell'attrezzo. No, ma noi dobbiamo fare il ponteggio fin qua, stiamo portando il legno. No, no, ma non è che se ne deve portare il legno, è che non lo può guardare, se lo guarda la cieca, vede che c'è il triangolo rosso di pericolo. Quindi passi da un'altra parte, passi dietro il laser, non davanti al laser. Perché se tu ti volti e becchi in pieno il raggio, quello ti accecca. Beh, è normale che sia così. E quindi stavano tarando. No, ci passava davanti con questa tavola. E ogni volta che portava una tavola, la tavola interrompeva il raggio laser, no? Perché se ci passi davanti interrompi il flusso. Ah, capite, è la stessa cosa come il telecomando del televisore, se ci metti qualcosa davanti non prende, così è quello. È ovvio, però con la differenza che il telecomando non ti fa niente, perché ha infrarossi. Quello là invece è il laser, anche se c'ha credo 100 milliwatt o una cosa del genere, e quello ti fa casino. Vabbè, vediamo un po' se Claudio si è ripreso. Claudio è proprio avanzato e questo tempo è balordo, ti prende male e ti fa malare subito, perché non sai come vestiti, ti vesti leggero e vai freddo, ti vesti pesante e c'è caldo. Poi ti metti in tuta e si muore a faeva. Quindi mi bisogna venire a casa a prendere il giubbotto, perché è così, è un tempo un po' bizzarro. Sì, appena dell'Amen, che sono oramai parecchie settimane per fare un lavoro che doveva essere veloce, se invece piove, non piove, a mezzogiorno inizia questo caldo, la mattina ce n'è da tremarsi, dal freddo, insomma è un manicomio. Chiaro che poi te ne prendi l'accidente, io non riesco ad avere la voce, ogni tanto mi manca la voce, non so perché, e mi sta costando anche caro, perché ogni volta, oramai già lo sai, devi andare a pagamento, a fare visite, a capire, cercare di capire cosa può essere successo. E niente, non parliamo poi del collo, della cervicale, è un macello. E questo tantissima gente non si regge in piedi, hanno le vertigini e tutte queste belle cose. Poi è un po' anche la vecchiaia, ovviamente, perché ci mancherebbe altro, ma non si può essere sempre giovani. E guarda, non da molto mi è successo che la mattina mi sono alzato e vedevo tutto che mi girava, non mi reggevo in piedi, barcollavo come se fossi ubriaco. Adesso non so se è dalla labirintite oppure se artrosi cervicale, che ne so. Però mi sbattevano i mobili, ti sto dicendo che stavo per cadere. Lo so, può essere tranquillamente la cervicale, fa certi danni, però se ti capita in certe situazioni, tipo che sei uno a caso su un traliccio, come ne scendi? E io controllo anche quello, perché queste cose man mano che si va avanti sono sempre più frequenti e non riesci poi a capire cosa è, perché fai là, no, qua è tutto a posto e va bene, proviamo dall'altro, ti fa l'altra cosa per vedere se dipende da un'altra, no, tutto perfetto. Vabbè, allora scusa, che diavolo può essere? Quindi non sai più che prece prendere, capito? Io ti dico solo una cosa, l'altro giorno sono andato al cimitero e ho dovuto mettere i fiori a mia nonna che è all'ultimo piano, devo salire con quella scala che si muove in tutta. Guarda che ce l'ho fatta, però era un po' destrizzato, perché vedevo questa scala che si muoveva, perché non è stabile, capito? Quello è ovvio, perché sono abbastanza alte. Non è che capottano, quella è la nostra situazione, ma mi ha avvertito anche quando 10 anni fa ho messo in piedi sto traliccio, il muratore che ha fatto il basamento in calcestruzzo, mi ha detto se ricordi non si preoccupi se si muove, è normale per i ponteggi. Ho detto sì, no, non si preoccupi, e su devi vedere, su si muove, cavolo se si muove, nonostante ci sia un basamento di calcestruzzo abbastanza grande che lo blocca, però si muove come? E si muove il grattacielo, non si muove quello. Quando ci avete il grattacielo è fatto apposta per essere, deve essere flessibile, se no arriva a tutto. Deve essere elastico. Vabbè. Cose che capitano, però non puoi, poi io non ho mai chiamato nessuno per fare lavori, ho sempre fatto tutto da solo perché non mi fido, capito, ma non mi fido per semplice motivo che se capita qualcosa poi ti inguai di brutto, perché dice iniziano, ma questa era normativa, eccetera, no, ma noi siamo dei maturi, cioè abbiamo una diversa cosa, però, ma c'aveva il casco, non c'aveva il casco, c'era questo, c'era quella, insomma sono guai grossi. Poi guarda, l'antenna mia è messa sopra il tettuccio, diciamo dove c'è quello dell'ascensore, la cabina dell'ascensore, e praticamente poi c'è una discesa che se tu metti male il piede ti invita proprio a scendere giù e fai 5 piani, capito? Ovviamente senza ascensore. La conosco bene la tua antenna, perché guarda, l'ultima volta che l'ho vista è stata stamattina, perché scendo giù da quella via panoramica, no, si vede anche il mare, via Pratti, sì, credo che sia via Pratti forse. E tu sei in una ottima posizione, tu pensa che in VHF, probabilmente anche in UHF, dalla tua posizione si potrebbe parlare tranquillamente con un portatile che passeggia al porto, ecco, per darti un'idea, col gommino, perché quella zona è abbastanza aperta verso il mare. In compenso, per disgrazia, verso l'Imbara non potresti fare un tubo probabilmente, perché c'hai Usedo che ti copre. Sì, vabbè, anche i paesi ci arrivo, ma con un segnale più basso, però c'è tutta la zona Sinabadesi, tutta quella zona lì, Costa Paradiso, tutta quella zona arrivo bene, capito? Ho parlato anche con autisti di camion, lui in camion e io da casa, e mi sentivano perfettamente. Però una volta me l'ho sentita anche a Urbia, lo sai, che è una cosa proprio esagerata. Mi ha detto che sentivano solo a me, sentivano che io passavo agli altri, mi ha provato a chiamare, però non lo sentivo, capito? Dal camion, dal porto di Urbia. Vabbè, sarà stata propagazione, però Urbia è tutto montagna, è un casino. Eppure sono arrivato. Sì, a Urbia, quando c'è un collega, lo sento basso, lo sento, sente anche a me, però devo andare anche oltre 50 watt per poterci arrivare. E prima che le antenne erano più in alto, perché le ho dovute abbassare perché non uscivo troppo di salire, altri 2 metri in cima ballava troppo, e ci arrivavo via. Adesso invece riesco a ricevere qualche collega di Arzachena, arrivo bene a metà strada, quindi a Oschiri, tranquillamente in VHF e anche in UHF, basso in UHF ma ci arrivo, anche io verso la zona di Badesi, niente, poi ci arrivo meglio in digitale, ovviamente in digitale anche se zero si riesce a comunicare, mentre passando in analogico senti tutti quei problemi tipo la 27 AM, no? Rumori di sottofondo, beh certo, vabbè, quelle sono altre frequenze. Comunque già per arrivare con la 27 di Urbia, allora mi ha sentito, dove dico Tarzaletto, te lo posso anche dire, mi ha trovato dove lavoravo e mi ha detto, ma lo sai che ti ho sentito ieri, chiamavo e tu deve essere non mi sentivi, però tu ti sentivo benissimo, gli altri non li sentivo, ma te sì. Anche lì dipende dalla zona. Sono vie un po' particolari, ecco. Non c'è mai la certezza di questi collegamenti. Ma tu pensa che io ti stavo dicendo che ad antenna abbassata arrivavano i russi che erano da paura col tuo segnale, guarda. E andò mai, dice, l'antenna a terra. Stavo per andare, sono frustrato perché stava anche piovendo, per staccare il PL a vedere se questi arrivavano lo stesso. E stavo parlando in continuazione. E poi come al solito sotto nei 26 ci sono i tedeschi che parlano, arrivano chiarissimi, mi ho detto boh, Infatti te l'avevo detto, adesso la porto su, vedrà che mi tocca ritoglierla perché c'è qualcosa che non va, come sempre. Era meglio lasciarla a terra, se non fosse stata ad impiccione. Già, fai, parla sul tetto ti viene male, perché dopo magari la porti su e c'è di nuovo da scenderla per tararla bene. Sul tetto non puoi fare il lavoro. No, non si può fare perché la taratura finale per la banda va fatta tagliando un pezzo di cavo, perché lo sai che dentro c'è quel cavo solito, e lo devi tagliare per raggiungere la frequenza desiderata, che per noi, per questa qua dovrebbe essere proprio o il canale 10 o il canale 14 a metà banda. E quindi per forza l'antenna, che ti piaccia o no, giù la devi buttare. Non è come una mantova, ad esempio, che la regolavi la bobina, allagavi i dadi, scendevi e salivi anche con l'antenna in piedi, poi la tiravi ancora più in alto e il gioco era finito. Qua era la cosa più complicata. E infatti la fabbrica te la dà già taratta. Non è questione neanche di strumentazione, perché insomma io come strumentazione già sono ben attrezzato, c'ho anche l'apparecchio portatile che fa tutte le frequenze fino a 500, fino a 600 MHz, quindi insomma apparecchiature non manca, solo se l'apparecchiatura mi dice guarda che c'hai due e mezzo di stazionarie e l'antenna giù la devi buttare. Io già qua mi ricordo quell'apparecchio che tu mi hai venduto da quella zona lì, da vicino a casa, quella strada che porta poi a Monte Rosello Alto, e praticamente a piedi con il cane parlavo con Porto Torres con l'antennino di gomma. Perché a volte c'è anche propagazione eccetera che aiuta molto. E comunque, siccome ad esempio molti apparati militari partono da 25 perché utilizzano la 30 MHz o la 26 MHz anche a volte, e quelli sono apparecchi che se tu guardi difficilmente proprio quello che è da mettere in macchina c'ha 25 watt, quindi abbastanza poco, eppure riescono a comunicare con una certa sicurezza. Sì, ma le apparecchi militari le antenne, ma altissime, quelle col bollone, non so se tu le hai mai viste, che le antenne militari sono allucinanti. No, mi riferivo a quelle portatili che sono di norma, ne hanno di due modelli, una da 2.5 che è quella per lo spalleggiabile, no? Ce l'avevo anch'io su un apparato che poi hanno assassinato, poverino quell'apparato, un peccato. E l'altra è da 7 metri, sempre telescopica, c'è quel sistema micidiale a cordicelle, perché poi la devi mettere nello zaino, no? E poi ne hanno un'altra che però è un dipolo, questa è la dotazione per quel tipo di apparecchi. E poi c'hanno ovviamente varie configurazioni per metterlo nei carri oppure per metterlo nella Jeep e così via. Certo adesso c'hanno apparecchi più moderni. Li vedi su cosa? Anche su Radio Sud Plus. Ecco, le antenne sono utilissime perché in poco spazio fai un'antenna decente, veramente decente, perché sono fatte una specie di vetroresina che hanno il finale in anzi no, non è vetroresina, cosa sto dicendo? È quell'ottone leggero, alluminio leggero, che sono tipo le vecchie canne da pesca, te le ricordi che si univano. Dentro queste antenne c'hanno una cordicella, tu tiri e tutti i tubi quasi automaticamente si mettono in fila e l'antenna è fatta. Tipo tu della campeggio così. Sì. bisogna vedere però se è una cosa che dura nel tempo. Se dura nel tempo. Quelle sono veramente a norme NIL, che sono le norme che prevedono le vibrazioni, l'umidità e tutte quelle cose lì. Sono roba indistruttibile, tanto è vero che ti vendono ancora a certe radio che sono degli anni 60, degli anni 70, ma sono fatte bene. Se tu pensi che io invece con apparecchiature moderne devo ogni tanto controllarmi lo spiralizzato del microfono per vedere se, infatti lo sto guardando anche adesso, se sei malato, perché deviene quella malattia brutta che si sfalda la gomma. E a me non era mai successo, neanche sugli apparati CB, te li ricordi? Erano fatti bene, erano c'era questa gomma che era normale, la tiravi sempre perché se avevi l'apparecchio in macchina era sottoposto a grande usura, si poteva magari staccare il coso, il connettore o da una parte o dall'altra, però il cavo era sempre perfetto, lo tagliavi, lo risaldavi, era fatto. Adesso invece su certi cavi guardo in mezzo, guardo ai lati, lo sbricio di con le mani. Boh. Sì, è vero, anche quell'apparecchio che viene tutto quel portatile, diciamo, quel difetto lì. Infatti io ho cambiato tutto il cavo, avevo un altro apparecchio simile a quello che era distrutto, ho preso il cavo di quell'apparecchio che era bello morbido, nuovo, e l'ho messo in quell'apparecchio lì, capito? Ma a me è capitato anche sull'apparato militare, cioè su due apparati militari professionali, che sono VEU, l'ho dovuto chiamare non mi ricordo dove era quello lì, però, ma scusi, io ho comprato il microfono, un microfono di quelli costa 60 euro, non trovo più il cavo. Come non trovo più il cavo? Si sbriciola, vedo il conduttore interno, si è sbriciolato, davvero, perché non ce l'ho mandato dietro? Oramai l'ho sostituito, ci ho messo un altro cavo, cioè allucinante, cavolo, quelli dovrebbero essere apparecchi con norme severissime, vanno e capisci? È un materiale che usano che adesso non serve più, prima il materiale della guaina era buono, era proprio grosso, io ho cavi conservati di quelli spiralati, di quei cavi, ne ho tanti conservati di microfoni vecchi, di cose, ma non ce n'è uno che sia spellato, nemmeno uno. Non solo quello, anche il cavo che carica il telefono adesso mi sta facendo la stessa cosa, infatti gli ho messo del nastro bianco per tapparlo perché si stava tutto spellando. Sì, è questa qualità veramente di... A me dà fastidio perché insomma se ti dice una cosa che a norme NIL, cacchio, se sei in combattimento e ti trovi la radio che non funziona perché quella cavo se ne fa per il cavo di sui, ti incazzi un pochino. Eppure anche questo si trova. Ma chi ne capisce è bravo. Mentre sono soddisfattissimo, guarda, se ti devi prendere il cavo, controllo da quella ditta italiana, Messe Paloni, che è un cavo assolutamente formidabile.